Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Sabato 12 aprile 2003. Domani è una normale domenica di Serie A, ma stasera per i tifosi di Milano c'è il derby. Fede religiosa contro fede calcistica. E durante il derby della Madonnina io sono dentro al Duomo, esattamente sotto alla statua della Madonnina. Mi chiamo Federico Zanardo, vivo a Pioltello, ho 24 anni e da 6 sono fidanzato con Alice. Studio comunicazione e lavoro a scuola. È il 4 di maggio del 2012, sono le 16:06, questa era di 24. Io sono Matteo Caccia e una settimana oggi siamo al Salone del Libro. In realtà già una settimana ieri, perché facciamo giovedì e venerdì in diretta da là, senza il nostro Paolino Corleoni, che non è che non ci sarà, ma non sarà là. Ci saremo anche sabato però, e per quelli che verranno sabato, finalmente sappiamo l'ora del mini live di sabato al Salone del Libro, saranno le 18, le ore 18, avremo credo un'ora o poco più, quello che faremo, sì giusto, non siamo in diretta, per l'esattezza, non siamo in diretta, quindi se avete voglia di vedere il mini live dovete venire là, allo stand di Radio 24, sabato alle 18. Facciamo una dimostrazione, l'ho già detto? L'avevo già detto come la facciamo sabato? Sabato facciamo una specie di rappresentazione di come nasce una puntata di Voi Siete Qui. Dall'arrivo dei racconti, la cernita, la lettura e proprio alla messa in onda. Alla fine facciamo una sorta di finta messa in onda tutto lì dallo stand di Radio 24. La cosa che vi chiedo quindi è... se non l'avete ancora fatto, invece che spedire i messaggi, se venite sabato, perdonatemi i racconti, portateli, portate la vostra pagina di racconto e li selezioniamo lì, anche se avete già partecipato, basta che ne portiate un altro. Sabato alle 18 per il mini live, giovedì e venerdì per la diretta alle 16. Messaggio per le donne all'ascolto: non cambiate canale per il semplice fatto che vi sembra che oggi parleremo di calcio. Perché non è così, perché come al solito il calcio è sempre un modo per parlare d'altro. Sto metodo che abbiamo trovato è fantastico, è anche quando litigo con la fidanzata. No, guarda, dico questo ma non voglio parlare di questo, in realtà voglio parlare d'altro, è altro che ti sto comunicando. Quindi non parliamo di calcio, non parliamo, meglio, solo di calcio, non parliamo solo del derby che ci sarà domenica sera e che come tutti i derby calcistici ci è una partita che ha una sua importanza. Non parleremo di Inter Milan. Questa roba. Io ringrazio Paolo Corleoni per aver aderito all'operazione portata avanti da Fabio Cantadori, che vedo in regia e che è chiaramente l'artefice di tutto ciò. Uno, giusto? Ce ne abbiamo uno o ce ne abbiamo altri? No, uno basta. A posto così! Ieri mi è arrivato un messaggio su Twitter, sul profilo Twitter, di uno che mi diceva scansamose, per citare la vecchia partita, la vecchia frase dei laziali quando si trattava di Inter Roma per lo scudetto, e la domanda è stata: io mi scanso pure, ma da che parte? Perché dove pari male. Ripeto, non si parla solo di calcio, si parla di tutte le volte che avete dovuto seguire un avvenimento sportivo, di qualsiasi tipo fosse, ma facendo altro. Perché eravate obbligati a fare altro, perché avevate un matrimonio, perché avevate un funerale, perché avevate una lezione, perché dovevate lavorare e in qualche modo attraverso gli sms, attraverso le radioline, attraverso persone che vi venivano vicino e vi davano i risultati, avete cercato di seguirli. 349-238-6666. Chiara: ero al concerto di una band che adoro e l'amico che era con me voleva assolutamente seguire Milan Real Madrid, così mi costrinse a sentirla su una radiolina con lui. Eravamo talmente presi dalla radio che non ci siamo accorti che il concerto stava iniziando. Ma poi mi è venuto in mente adesso, io ricordo di aver visto quei video virali, credo, non so nemmeno cosa fosse esattamente. Era una sorta di scherzo fatto a un ragazzo che era milanista nella fattispecie e che voleva seguire una partita di Champions del Milan, parlo di 2 o 3 anni fa, però era stato obbligato dalla fidanzata ad andare a un concerto di musica classica o a un balletto, proprio una roba per cui te lo immagini. Hai presente, Rudy, di cosa parlo? Una specie di video che appariva su internet e si vede lui che arriva a sto teatro pieno di gente e c'è tipo la radiolina, comincia lo spettacolo, spegne la radiolina al cellulare e sullo schermo del teatro appare la partita proiettata. Ed non so se è uno scherzo che gli ha fatto lei o era una roba promozionale di qualche birra, sicuramente sarà qualche birra o qualcosa di scommesse. Rudy ha capito di cosa parliamo. Vabbè, tant'è. 349-238-6666. Renato, finale FA Cup 95. Ma Renato, ma sei un malato però, perché la finale FA Cup 95. Durante un matrimonio sono sparito dalla sala del ristorante per andare a vedere la partita nel bar vicino. C'era ancora Tele Monte Carlo e fu pure sconfitta. Manchester United 0, Everton 1. Ma da dove sbuchi, Renato? Sara, io ero al seggio come scrutatrice mentre si stava disputando la partita che avrebbe deciso se la squadra del mio cuore e del mio quartiere, il Chievo, sarebbe rimasto in Serie A. Ma perché tu hai il Chievo dei tifosi? Io non ho mai visto un tifoso del Chievo in tribuna. Margherita Inna se la prende perché, come dire, è mio tipo. C'è la. Vabbè, ma ho capito, ma Novara è una città, il Chievo è una parte di Verona. Se tu chiedi a un veronese qual è la squadra di Verona, ti rispondono l'Hellas di solito. E adesso giù messaggi. Non sono Carlo Genta, tranquilli, non prendetevela. 349-238-6666. Ce n'era un altro bello. C'ho tempo di leggerlo? Sì, ce l'ho. Basta trovarlo, no? Eccolo qua. Battista, Mondiali 90. Italia-Argentina, Cagliari. La mia ragazza di allora doveva sostenere un esame all'università e poi partire per tornare a casa dei genitori. Non ci saremmo visti per 2 mesi. Attendo la fine dell'esame, si protrae a lungo. Usciamo dall'università alle 20. C'è però lo sciopero dei mezzi e dobbiamo andare a piedi fino in stazione. Nel frattempo, sono le 20:30, comincia la semifinale. Dopo i saluti e baci e gli abbracci, affronto il ritorno a casa sempre a piedi dalla stazione. E mentre cammino, ascolto tutto il primo tempo della partita dalla telecronaca che esce dalle finestre spalancate delle case e dei palazzi nel caldo luglio cagliaritano, esultando come un pazzo nel deserto della strada al gol di Schillaci, che, come ci ricordava prima Tiziano Bonini, 19esimo minuto, gol di Schillaci, e l'altro 40, Caniggia, secondo tempo credo. Va bene, donne, rimanete lì, ma rimanete lì perché no, in questa partita, in questa puntata, figurati, l'ho detto, raga, l'ho fatto, questo è freudiano, questo è sfumino, vai, vai, musica. In questa puntata non si parla solo di calcio, si parla soprattutto d'altro. Sabato 12 aprile 2003. Domani è la Domenica delle Palme e stasera, per noi adolescenti degli oratori di Milano, c'è l'appuntamento della veglia in tradizione simboli, in Duomo col Cardinale. Sabato 12 aprile 2003, domani è una normale domenica di Serie A, ma stasera per noi tifosi di Milano c'è il derby. Fede religiosa contro fede calcistica. Se entrambe sono abbastanza salde, sai già chi vincerà, la prima. E così, ironia della sorte, durante il derby della Madonnina io sono esattamente sotto la statua della Madonnina. Quell'anno mi sembra che Milan e Inter non fossero al vertice della classifica di Serie A, però il derby è una partita comunque sentita, e soprattutto i derby di Coppa dei Campioni che ci furono un mesetto dopo li ricordo con molto piacere, perché vincemmo noi. Per me, quindicenne tranquillo e non alla moda, il cellulare è ancora un vezzo non necessario, quindi zero possibilità di essere aggiornato in tempo reale da quegli amici con la fede, quella religiosa, un po' più vacillante della mia. Ma nella tasca destra del giubbino, immancabile, c'è la radiolina, quella mitica che ho fregato a papà di nascosto. Lui sarebbe stato costretto a girare con quella grande, quella della cucina. Prima di comprarsi questa tascabile, le domeniche usciva insieme a mia mamma e si portava dietro quella specie di cassetta della frutta appoggiata alla spalla, con la cassa direttamente nell'orecchio. E io non sono molto diverso da lui, però non voglio ascoltare tutto il match, no, altrimenti sarei rimasto a casa, che il divano è più comodo e la TV è bella grande. Solo un flash ogni tanto per sapere come va. Arrivo verso le 20:15 e prendo posto con i miei amici su una panca della navata di destra dietro un pilastro, un po' nascosto. Perfetto, penso, qui non mi vede neanche il Don ed evito cazziatoni imbarazzanti. Ma appena comincia la funzione, due dello staff di sicurezza si piazzano esattamente davanti a me e mi irrigidisco. Cavolo, se mi beccano con gli auricolari questi, prima mi sequestrano la radiolina, poi mi sbattono fuori a pedate nel culo. E a papà come glielo spiego? Per un'ora non azzardo nessun tentativo e mi tengo la curiosità incessante. La funzione va avanti come sempre, tra alzarsi, sedersi e spargere dell'incenso in giro per la navata. A me però sembra interminabile. È incredibile come ogni cosa che accade nel posto in cui ti trovi sembri priva di significato se tu vorresti essere altrove, allo stadio magari. Sono cresciuto in oratorio, la sede cattolica è stata inculcata, come spesso capita, dalla famiglia, ma proprio crescere, diventare grande in oratorio con tanti amici, tante persone cui voglio bene, non ha fatto altro che rafforzare questa mia convinzione, questa mia fede. Ma a un certo punto arriva un terzo uomo dello staff che guarda i colleghi e dice: il Milan vince 1-0. Stupito, assisto a tutto il dialogo. Uno dei due chiede: chi ha segnato? E prontamente si sente in risposta: Pirlo. Io li guardo, sorrido e senza più tensione intervengo: impossibile, Pirlo è squalificato. Infatti aveva segnato Inzaghi. Me lo ha detto la radiolina poco dopo, quando al termine della funzione ascoltavo gli ultimi 5 minuti mentre ero in fila per dar la mano al cardinale. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Ho pensato che fosse giusto raccontare oggi la storia di Federico. Ho pensato che fosse giusto perché oggi è il venerdì prima del derby di Milano. Donne, rimanete qui, non andate via. Il derby della Madonnina, come lo chiama Federico. Domenica sera alle 20:45 l'Inter e il Milan si giocano una semplice partita di calcio, che non è mai solo una semplice partita di calcio, e lo fanno nello stadio che è di entrambe le squadre, o in cui almeno giocano entrambe le squadre. In partite come queste scattano tutte quelle dinamiche tra concittadini appartenenti a fazioni diverse che si vedono in ogni città del mondo, dalle lotte tra rioni nei paesi più piccoli, passando per le contrade di Siena, fino agli ultra che si fronteggiano da una parte all'altra di uno stadio di calcio. Robe tipo insulti, sberleffi, una gara a chi fa la battuta più sagace, più umiliante, a chi si dimostra migliore prima ancora che le due squadre scendano in campo e quelli che guardano diventino solo quelli che guardano e non hanno nessuna reale influenza sui giocatori in campo. Dal momento che io ho più di una volta parlato di calcio e della mia squadra di calcio, che mi pare non essere esattamente la stessa che tifa Federico, oggi ho sentito l'esigenza di spiegare un po' da dove arriva questa cosa del tifo, visto che di situazioni simili alla sua io ne ho vissute più di una volta. Dunque, in origine il tifo per una squadra o per l'altra si forma per motivi molto diversi fra loro, per motivi genetici, ed è il mio caso, che sono i più semplici, cioè tuo padre tiene per quella squadra e tu fai altrettanto. Oppure per motivi di compagnia, i tuoi amici tifano e tu tifi con loro, o per motivi di cuore, la persona con cui stai è tifosa e tu segui quei colori di conseguenza. Questo però vale soprattutto per le donne, un po' meno per gli uomini. Insomma, io nasco interista e li rimango. Attorno a metà degli anni 90, però, vuoi per i pessimi risultati della mia squadra, vuoi perché non avevo più modo di seguirla, quella specie di malattia mi passa completamente. Mi trasferisco a Milano, non ho la televisione, e mi faccio travolgere da quell'entusiasmo tipico dei fuorisede, no? L'università, la scuola di teatro, tutte quelle cose che ti capitano attorno ai 20 anni e poi fortunatamente passano. Per una decina d'anni io non seguo più il calcio, non seguo più la mia squadra. Perdo dei pezzi, non conosco più i nomi dei giocatori, nomi degli allenatori, addirittura dei presidenti, che è una cosa che può sembrare normale per chi non è interessato, ma che è allucinante per chi tifa da tempo una squadra. Fino a che comincio a lavorare in teatro e ad andare in giro con gli spettacoli. Ora, chi non ha mai frequentato quel mondo lì, quello del teatro, è giusto che sappia due cose. La prima è che la tournée, cioè quella che vai di città in città portando il tuo spettacolo, cambiando il teatro, gli hotel, i ristoranti, ecco, la tournée può sembrare una cosa divertente, in realtà è forse la cosa più noiosa della terra. La seconda è che gli attori, in generale, stiamo generalizzando, quindi facciamo le dovute eccezioni, però di solito sono persone con pochi interessi oltre al teatro, che quindi parlano di teatro, di registi e di altri attori. E soprattutto parlano di quanto siano cani gli altri attori, soprattutto quelli che lavorano più di loro. Insomma, con queste persone io quasi mi vergognavo a dire che mi interessava il calcio, visto che non era mai argomento di discussione. Finché un giorno ho incontrato Rudy. Rudy era il direttore, è tuttora il direttore di scena di uno spettacolo, di un teatro, e lo spettacolo all'epoca si chiamava La Tempesta. In quello spettacolo io facevo la parte di un naufrago ubriaco e per scelta registica, non per scelta mia evidentemente, dovevo stare in scena 45 minuti immobile, senza dire niente, senza fare niente, in attesa della mia prima battuta. 45 minuti sono tanti, eh? 45 minuti è la durata di questo programma. Immobile, senza fare niente. Bocca al lupo. Insomma, una tortura. Rudy, umbro di Spoleto, era tifoso interista, ma un vero tifoso interista. E io intravidi in lui una specie di zattera di salvataggio da quel mondo fatto solo di arte e di polvere di palcoscenico. E iniziai, così quasi distrattamente, a chiedergli come fossimo messi in classifica, chi compravamo, chi vendevamo. Per capirci, per chi se ne intende, erano gli anni in cui nell'Inter giocavano giocatori tipo Sorondo o Sergio Consensao Insomma, fu durante quello spettacolo che mi tornò la scimmia per il calcio e per i coloni nerazzurri. E fu Rudy, una domenica pomeriggio, a Gubbio, mentre io ero in scena ad aspettare il mio turno, a venire da dietro le quinte a dirmi che l'Inter era passata da uno 0-2 casalingo contro la Sampdoria a un 3-2 in rimonta, con gol di Martins, Vieri e dell'ormai indimenticato Alvaro Recoba. Va dentro, buono, Zorba, il cross, prima intenzione, Bobo anticipato, palla vagante, mette giù, Recoba, il tiro, alle superiori con le cuffie per seguire uno slalom di Alberto Tomba, Max, anche Bonini. Ma seguire uno slalom alla radio è come non seguirlo. A parte che anche la telecronaca in realtà è che è un suono, che ti arriva nell'orecchio quella voce del commentatore e capisci cosa sta succedendo, perché non è che segui quello che accade in campo tramite il rimbalza la palla. Scemerello, il Chievo è la più bella realtà italiana. Sì, non sto dicendo che non, è sicuramente la più bella realtà italiana, ma ha dei tifosi il Chievo, cioè ha della gente che fa l'abbonamento e lo segue? È una domanda. Finale Coppa Campioni Milan-Juve, premetto. Sono un vigile del fuoco, esco per incendio ad Asiago. Era il 15° del primo tempo. Arrivo sul luogo dell'intervento in capo al mondo, scendo dall'autobotte e mi dicono Milan, Milan, Milan. Io sono juventino. 349-238-6666. L'artefice di tutto ciò è un giovane uomo che si chiama Federico e che è al telefono. Pronto Federico? Ciao Matteo, come stai? Io bene, tu come stai? Tutto benone, grazie mille. Dove sei Federico? Io sono nel cortile della scuola dove lavoro, perché appena stacco con te comincio con i miei bambini. È il solito cortile, che di solito è un bagno dove si rifugiano le persone che alle 16.30 parlano con noi. Che cosa fai a scuola? Io sono un operatore di servizi socio-assistenziali scolastici, che detto così sembra una cosa meravigliosa. In realtà faccio l'operatore del prescuola e del doposcuola. Quindi i bambini che non possono essere presi appena suona la campanella alle 4:30 perché i genitori fanno lavorano. Tardi. Esattamente. Ma è un servizio lì e ci sono io. È un servizio a pagamento? Sì, un servizio a pagamento, ci si iscrive in comune, il comune fa l'appalto. E tu cosa gli fai fare? Cosa fai fare ai ragazzi? Ai bambini? O li aiuto con i compiti, o se è una giornata bella come oggi usciamo in giardino, giochiamo un po'. Ma che tipo di formazione deve avere, scusa Federico, per fare questa? Ma bisogna essere svegli, avere piacere di stare con i bambini, avere anche la pazienza, perché ogni tanto fanno un po' i monelli. Scusami, quante ore fai a settimana? Io ne faccio due al giorno, una al mattino e una alla sera. E quanto si tira su al mese facendo un lavoro come questo, più o meno? Se ti va bene, non ci sono tanti ponti, vacanze, così, €300. Va bene. Non ci si campa, diciamo. Ah, così. Ok. Ma tu studi ancora, Federico? Sì, mi mancano un paio di esami per finire la laurea magistrale in comunicazione. Ok, benissimo. E adesso andiamo a quel derby. Andiamo a quel derby del 2003. Ci sono un paio di cose che voglio chiederti. La prima è, ma c'è la security in Duomo? Sì, ci sono quelli che controllano che nessuno faccia casino o che nessuno tiri fuori le radioline per ascoltare le partite. Cioè, è proprio non è un servizio di sicurezza rispetto a problemi di violenza, proprio rispetto alla possibilità di distrarsi durante la cerimonia. No, vabbè, la prima cosa che controllano è che non ci sia qualcuno che si infiltra proprio per disturbare la funzione. Se qualcuno fa lo sciocco, magari ti tirano un'occhiata, cioè tu fai bravo. Senti, e invece mi spieghi cos'è la veglia in tradizione simboli? Ma è quella dove si lavano i piedi? No, quella no. È la messa in cena domini che c'è il giovedì santo. La veglia in tradizione simboli è una celebrazione per tutti i ragazzi della diocesi di Milano, che c'è il sabato sera prima della Domenica delle Palme. Sei preparatissimo, tu sei credente e praticante, come si dice, cioè vai, certo, vai in... questo vuol dire andare in chiesa tutte le settimane. Ovviamente. Ovviamente, anche quando sei in vacanza, scusami, lo so che sembra una domanda stupida, però anche quando sei in vacanza trovi una chiesa da raggiungere, certo, giusto? Certo, okay. Anzi, le chiese che preferisco sono quelle dove vado quando sono in vacanza. Perché? Il paesino di mia nonna in provincia di Novara, tra l'altro, oppure... Dove? Dimmi dove. Armeno. Armeno, come no, ragazzi, siamo di qua, cosa siamo qui a fare? Siamo nella provincia di Novara mica per niente. Certo. Ti piace particolarmente la chiesa di Armeno? Di Armeno, sì, che è molto bella e storica, e poi soprattutto la chiesa di Bueggio, che invece è in provincia di Bergamo, in Val di Scalve, dove ho fatto un sacco di campeggi appunto con l'oratorio. Va bene, a proposito di campeggi e di oratorio, ci diamo appuntamento più tardi, perché la foto che ci hai mandato mi sembra arrivare da una roba là, giusto? Dalla montagna? Dalla montagna, sì, non ero con l'oratorio, ma era un giro di trekking con un amico e c'era un derby e dovevo ascoltarlo. Federico, buon derby per domenica sera. Anche a te, forza Milan, eh? Ciao, grazie, buona ciao, giornata. Ciao Matteo. Ciao, grazie. Tutte le domeniche lavorando al cinema, seguo la Juve grazie alle soffiate dei clienti. Dio benedica quelli con l'iPhone. Simone. Voi siete qui. È in montagna, come ci preannunciava Federico appena prima della borsa di Deborah Rosciani, che ringraziamo per darci proprio tutti i dettagli sulla... Deborah, davvero, guarda, quando c'è la borsa e ci sei tu, io spero che tu me li dia proprio tutti, perché ogni tanto ho paura che mi sfugga qualcosa. Amiamo Deborah Rosciani, io l'amo follemente. Ridammi la sigla della foto, dai, che ho svaccato. Voi siete qui. Come ci diceva prima dell'interruzione, Federico è in una foto in montagna, la trovate sempre sul sito di Radio 24, la pagina di Voi Siete Qui. Ha una radio, è sudato, fradicio, ha uno zaino sulle spalle e ha una radiolina nelle mani, ma soprattutto con delle cuffie alle orecchie. Ma soprattutto, e vorrei che Rudy, che è di là, guardasse, ha la tipica espressione attonita, basita e quasi rintontita del tifoso che ascolta una radiolina mentre fa altro. È un bel ragazzo, è credente, ma purtroppo è fidanzato. Lo dico per le donne all'ascolto che non sono calate. Arrivano messaggi che dicono: anche se parla di calcio, siamo qui. 29 novembre 1990. Mia fidanzata, ora ex moglie, torna e mi dice: ti aspetto a casa, ci sono i miei che devono parlarci. Ma cazzo, c'è il derby Genoa-Sampdoria. Serata infernale. Tra l'altro mi domando che cosa avessero da dirvi. A me non è mai capitato che i genitori di una fidanzata dovessero parlarci. No, mia fidanzata, allora mia fidanzata, adesso ex moglie. E poi Ignazio Juventino: domenica sera ho il saggio di danza di mia figlia al Teatro Goldoni di Livorno. Ringrazio Sky per la contemporaneità, perché doveva giocarsi il pomeriggio la partita da Juve, giusto? E poi carabiniere di leva: di ritorno da Genova, direzione Torino, dopo aver svolto servizio fuori da Marassi ad Alessandria, il capitano fa fermare pullman con 50 carabinieri e ci porta tutti nel cinema della caserma. A sorpresa trasmettono Italia-Uruguay, alla bomba di Schillaci 50 berretti volano per aria. Tra l'altro abbiamo capito che cos'era la storia del teatro: non era uno scherzo fatto a una sola persona, era uno scherzo organizzato da tutti, da tutte le mogli nei confronti dei loro mariti o compagni, e tutti quanti erano evidentemente tifosi milanisti che avevano acconsentito a non vedere la partita e andare a teatro, e poi si sono trovati davanti la partita, per esattezza Milan-Real Madrid. E mi scrive un uomo in questo caso: ciao ragazzi, allo scherzo al Teatro Verdi di Milano, mentre c'era Real Madrid-Milan, ho portato mia moglie, milanista sfegatata, ed è stato un bellissimo scherzo. Ci domandavamo chi fosse, ma abbiamo capito che doveva essere una di quelle robe virali, di pseudo-marketing, di wow, mi è venuta una grande idea. No, con tutto rispetto per le grandi idee di quelli che fanno marketing. Un amico ha pensato bene di sposarsi lo stesso giorno della finale dei mondiali del 2006. E non è che ha pensato bene, cioè è che i matrimoni li organizzi un anno prima, questo è il problema. Ai rigori stavo cantando Bacio Bacio. Che brutta immagine! Che si canta ancora Bacio Bacio. Dario: forza Hellas. A proposito, chiaramente i tifosi del Chievo si sono imbruttiti e mi hanno scritto che siamo pochi ma buoni, e come abbonato del Chievo ti assicuro che siamo più di 5.000. Ma più di 5.000 i tifosi o gli abbonati? E poi ancora questa è una persona che invece sarà a lavorare domenica sera al derby di cui parlavamo prima. Ciao, io domenica sera sono a San Siro per il derby a lavorare, sono l'aiuto regista per la televisione, ci saranno grossime pressioni ma faremo del nostro meglio per offrire un ottimo prodotto. Vabbè, Lella Milano, mi raccomando, fai il bravo. Ed eccoci qua, questo è il momento diciamo più alto della puntata, perché grazie a Margherita Ina, ma anche grazie soprattutto a Franco Piantanida di, che ascoltate sempre come assistente di a Tempo di Sport, abbiamo trovato un articolo che racconta di un derby Milan-Inter che in realtà non era ancora Milan-Inter, era Ambrosiana-Milan, cioè l'Inter si chiamava Ambrosiana, una partita del 1929, è finito 2-1. L'autore dell'articolo non sappiamo chi sia, perché forse all'epoca non erano nemmeno firmati gli articoli. La cosa interessante ovviamente non è tanto il risultato, non è che l'Inter abbia vinto 2-1 e non è che Meazza giocasse ancora in una di quelle due squadre, ma è il modo in cui viene raccontata quella partita. Calcistico milanese si è risolto con un successo dei nero-azzurri. Vittoria pienamente meritata che l'Ambrosiana, chiuso alla pari il primo tempo, riuscì nella ripresa a prendere le redini del gioco e a costringere il Milan, il focoso Milan che i più credevano come il più quotato per prevalere la distanza, in affannosa difesa. La squadra vincente seppe così fiaccare i temuti rivali, che questi neppure più riuscirono ad inscenare quel loro famoso serrate che in tanti precedenti incontri li portò a salvare situazioni disperate. Questa volta dunque non fu così ed il Milan terminò sfiduciato, stracco, piegato. Avevano capito ormai i rossoneri che contro un'Ambrosiana resa baldanzosa dal successo e lanciata alla ricerca di un ancora maggiore punteggio, le loro armi potevano considerarsi spuntate. Il caso volle così che il Milan, proprio in occasione del match più atteso, di quello che avrebbe dovuto procurargli un primato cittadino ambitissimo, incappasse in una di quelle giornate nere che non derivano certo da un mancato impegno da parte dei giocatori, ma da tutto un cumulo di circostanze che generano squilibri fra le linee, che rendono inefficaci le azioni di attacco, arruffate quelle di difesa. Ieri il Milan è riuscito, producendo il suo sforzo massimo, ad equilibrare le sorti nel primo tempo, ma poi ha dovuto abbassare quasi completamente bandiera. L'Ambrosiana ha mancato per poco una vittoria ben più clamorosa. Sin dall'inizio l'undici nero-azzurro seppe mostrarsi in buona giornata e fermamente intenzionato ad affermarsi. L'arbitro Carraro aveva infatti appena dato il via alle due squadre che l'Ambrosiana scattava furiosamente all'attacco. Erano Meazza, un giocatore che a Milano è un idolo, e Lazevic, che riuscivano per primi a passare attraverso gli sbarramenti nero-azzurri e che tentavano di ottenere un risultato concreto. Il Milan pensò forse che la sgroppata iniziale degli avversari, appunto perché troppo focosa, dovesse cessare presto e senza recargli danni. Invece, dopo 7 minuti di gioco, Visentin scuoteva la rete di Conipiani. L'azione del punto era stata iniziata sulla sinistra, da Meazza, che portatosi ad una giusta distanza, tirava in gol. Conipiani riusciva a parare e respingeva corto, permettendo così a Visentin, che si era spostato verso il centro, di tirare deciso in porta. O 5 luglio 1982, funerale di mio nonno, mi scrive Marina. Metà delle persone alla cerimonia con la radiolina all'orecchio anche durante la processione verso il cimitero. Ma la domanda è: con chi giocava l'Italia al campionato del mondo? Forse con il Brasile? Ricordamelo per favore. Adesso troviamo il modo, la cerchiamo. Secondo me era 4-5 luglio, era probabilmente una semifinale, quindi era Italia-Brasile. Italia-Brasile 3-2, 1982. Italia-Brasile 3-1. Italia-Brasile, no, no, 3-2. Italia-Brasile 3-2. Scusa, Bonini quasi si offende. Bonini sa tutto delle Olimpiadi, lo sapete, vero? Tutto. Bonini sa tutto delle Olimpiadi. Ma perché non fai una roba sulla D24 sulle Olimpiadi? Cosa c'è per le Olimpiadi sulla D24? Niente, nessuno lo sa. Margherita Ina non lo sa. Margherita, c'è. C'è Carlo Genta, certo, ci saranno degli speciali. Vabbè, lo chiederemo più tardi. Tra l'altro, ecco, volevo segnalare la faccia veramente attonita di Margherita Hina quando prima si parlava di lavaggio dei piedi in chiesa e di cose da oratorio, perché giustamente l'ho chiesto addirittura prima: ma scusa, tu non hai mai fatto il Grest all'oratorio di Romentino, come tutti noi giovani romentinesi? E lei mi ha ricordato che era abbonata di Miscia, questo mensile per i figli dei giovani comunisti. No, una volta fece il Grest, mi ha raccontato, e non sapeva le canzoni di chiesa. Che roba brutta per una ragazzina del paese. Boh, Bonini. Bonini se la prende, perché non è una roba brutta. Non è una roba brutta, però quanti anni aveva? Era brutta, certo. Ma semplicemente perché gli altri lo fanno e tu non lo sai. Semifinale dei mondiali del 2006. Ero di turno in ambulanza. Semifinale dei mondiali, parliamo di Italia-Germania, quindi 2-0. Ho visto la partita sbirciando nei salotti dei pazienti che andavamo a soccorrere, Nicolò. E poi ancora, cosa vuol dire questo? Ah, i genitori delle tue ex non ti hanno mai chiesto di andare a parlare perché non volevano che ti sposassi le figlie. Boh, questo è molto probabile. Ancora recriminazioni Chievo, ma come ti permetti di dire che il Chievo non ha tifosi abbonati? Le segui le statistiche? La risposta è no, perché seguire le statistiche delle tifoserie sinceramente mi sembra una roba più da Franco Piantanida. In questa classifica siamo davanti a molte squadre di Serie A. Un abbonato che si è fatto più di 200 trasferte, anzi per me è sempre trasferta, abitando a più di 150 km da Verona. Vai Armanno. Abbiamo finito anche oggi. Lunedì non siamo in onda perché c'è uno speciale per le elezioni, quindi ci sentiamo martedì per quelli che vogliono sentire alle 16. Per quelli che vogliono invece partecipare, siamo al Salone del Libro, giovedì e venerdì. Venite un'oretta prima e facciamo una puntata tutti su Voi Siete Qui, che siamo lì al Salone del Libro. Sabato invece, se avete voglia di passare, il live è alle 18, portate con voi il racconto. Grazie a Margherita Hina, a Paolino Corleoni e a Tiziano Bonini. La storia di oggi era la storia di Federico e parlava di derby. La storia di martedì è la storia di Franco e parla di proposta di matrimonio. Però volevo che anche il viaggio in Cina fosse una sorpresa. Le proposi un ponte dell'Immacolata in Sicilia. Lei disse ok, e da quel momento mi misi all'opera per trasformare un Milano-Catania in un Milano-Shanghai. Volo non troppo costoso, hotel in offerta con vista a mozzafiato sul fiume. Il primo e più semplice ostacolo era superato. C'era però un problema più ostico: il visto. Come riuscire a ottenere foto, firma e passaporto?